terminerò per raccontare, perché se tu questi in maniera pregnante l'archeologia del sapere del 1969 sia rappresenta un primo sistema, tentativo meglio, sistematico, piuttosto compiuto, di rispondere a quello che noi chiamiamo genealogia del soggetto in questo corso e che invece in questo libro, con le stesse parole di Foucault, è quella che è la ricerca dell'uomo. Foucault definisce l'uomo, quello che noi sentiamo di noi stessi, la nostra maniera di intendere, un'invenzione recente, e in questo libro va alla ricerca dell'origine di questo concetto, di questo significato, di questo sentirci in una stessa in una certa maniera esseri umani. Un libro diviso in due parti fondamentalmente. Ho inviato e faremo lettura quasi integrale dell'introduzione. Le prime 200 pagine abbondanti riguardano un periodo storico che va dal Rinascimento, o meglio dalla fine del Rinascimento fino alla fine del XVIII secolo, che è quello che andremo a vedere oggi, mentre nella prossima lezione andremo a vedere qualcosa che si riallaccia in maniera più stretta alla prima lezione di Antonio Caronia riguardo alla questione del soggetto nella cultura occidentale, e vedremo lo spartiacque kantiano e la genesi dell'uomo moderno. Quindi vorrei iniziare proprio leggendo la prefazione a questo testo. Questa è l'edizione che possiedo, un vecchio Bursaggi del 1998. Cosa scrive Foucault in questa prefazione che delinea in maniera piuttosto chiara e significativa quello che poi è l'intento del libro? Apro una breve parentesi. Nei testi di Foucault si alternano pagine assolutamente pregnanti dal punto di vista concettuale, in cui apre delle porte in maniera repentina, in maniera chiarissima, le spiega, e lunghi passaggi di documentazione archeologica. Foucault era un lettore avidissimo di testi. Foucault viene interrogato una volta in un'intervista sul fatto, non mi ricordo l'oggetto, mi sembra che fosse la masturbazione in Grecia, se avesse letto effettivamente tutti i testi concernenti la masturbazione in Grecia. La sua risposta era stata sì. Semplicemente il suo intento non era un intento filologico di ricostruire tutto, era un intento archeologico, cioè di andare a cercare quei materiali che effettivamente potessero avere un significato all'interno del suo discorso. Questo per dire che oggi non vedremo tutta la parte centrale del libro che tratta storicamente alcuni concetti che va a delineare, ma andremo a vedere i momenti di frattura, gli scarti di pensiero che individua all'interno di questa opera. Per chi volesse poi prendersi il tempo di leggere tutto questo passaggio, sono circa 150-200 pagine, su cui oggi sorvoleremo, di cui faremo un'ellissi fortissima. Come inizia? È uno degli incipit più belli in assoluti tra tutti i testi di Foucault. Questo libro nasce da un testo di Borges, dal riso che la sua lettura provoca, scombussolando tutte le familiarità del pensiero, del nostro, cioè di quello che ha la nostra età e la nostra geografia, sconvolgendo tutte le superfici ordinate e tutti i piani che placano ai nostri occhi il rigoglio degli esseri, facendo vacillare e rendendo a lungo inquieta la nostra pratica millenaria del medesimo e dell'altro. Qual è questo testo? E di che cosa parla? Foucault ce lo dice subito, è il tema generale di tutto il libro. Il rapporto tra certe forme di ordine del pensiero, tramite cui appunto noi placchiamo il rigoglio degli esseri, tramite cui noi diamo una forma al caos che ci circonda, e un qualcosa che sconvolge questa maniera di vedere il mondo, questa maniera di ordinare il mondo. Questo passaggio, che Foucault cita quasi integralmente, è contenuto in una raccolta di racconti di Borges, che è Altre Inquisizioni, e nello specifico il testo è L'idioma analitico di John Wilkins. Definito così il procedimento di Wilkins, sono le pagine precedenti, bisogna esaminare un problema che è impossibile o difficile postergare, il valore della tavola quadragesimale base dell'idioma. Consideriamo l'ottava categoria, quindi qua si parla di categorie che costituiscono degli insiemi di concetti, degli insiemi di significato. quella delle pietre. Wilkins le divide in comuni, selce, ghiaia, lavagna, modiche, marmo, ambra, corallo, preziose, perla opale, trasparenti, ametista, zaffiro, insolubili, carbone e arsenico. Quasi altrettanto allarmante la nona categoria. Questa ci rivela che i metalli possono essere imperfetti, cinabro, mercurio, artificiali, bronzo, ottone, di rifiuto, limatura, ruggine e naturali, oro, stagno, rame. La bellezza figura nella categoria decimosesta, è un pesce viviparo oblungo. Codeste ambiguità, ridondanze e deficienze ricordano quelle che il dottor Franz Kuhn attribuisce a un'enciclopedia cinese che si intitola Emporio Celeste di Conoscimenti Benevoli. Quindi stiamo facendo delle categorizzazioni, la citazione foucaultiana inizia in questo punto. Nelle sue remote pagine è scritto che gli animali si dividono in A. Appartenenti all'imperatore, B. Imbalsamati, C. Ammaestrati, D. Lattonzoli, E. Sirene, F. Favolosi, G. Cani randagi, H. Inclusi in questa classificazione, I. Che s'agitano come pazzi, J. Innumerevoli, K. Disegnati con un pennello finissimo di pelo di cammello, L. Eccetera, M. Che hanno rotto il vaso, N. Che da lontano sembrano mosche. Il famosissimo elenco borghesiano ripreso da Foucault. E Foucault come riprende dopo aver citato questo passaggio? Nello stupore di questa tassonomia sarà una delle parole chiave di stasera, ciò che balza subito alla mente, ciò che col favore dell'apologo ci viene indicato come il fascino esotico di un altro pensiero, è il limite del nostro, l'impossibilità pura e semplice di pensare tutto questo, l'impossibilità di pensare sotto una categoria, la categoria del medesimo, tutto questo. E quindi Foucault pone la prima domanda fondamentale che sarà uno dei trait d'union di tutto il testo. Che cosa dunque è impossibile pensare e di quale impossibilità si tratta? Qui sta ponendo immediatamente Foucault una serie di relazioni fra pensiero, linguaggio e cose. Le parole e le cose è il titolo di questo libro e sarà il trait d'union di tutta la sua riflessione all'interno di questo testo. A ciascuna di queste strane rubriche possiamo attribuire un senso preciso, un contenuto definibile. Quindi ciascuna di queste rubriche, di queste sottocategorie, in cui si dividono gli animali, è immediatamente riconoscibile. Talune, è vero, contengono esseri fantastici, animali favolosi o sirene, ma proprio isolandoli l'enciclopedia cinese ne circoscrive il potere di contagio. Distingue accuratamente gli animali in carne ed ossa, che si agitano follemente o che fanno l'amore, da quelli che esistono soltanto nell'immaginario. Le misture pericolose sono scongiurate, i blasoni e le favole hanno raggiunto il loro centro. Niente anfibico inconcepibili, niente ali artigliate, nessuna immondezza di pelli squamose, niente facce polimorfe e demoniache, niente aliti di fiamma. Quindi abbiamo una primissima categoria, cioè un primissimo spunto dal punto di vista del pensiero. Ognuna di queste categorie denota un aspetto specifico del mondo. Il problema in questo testo borghesiano è la maniera in cui queste categorie sono radunate, sono costruite per afferire a un livello superiore che è quello degli animali. Cioè noi sentiamo che ogni categoria può avere un senso, perdiamo totalmente il senso della riflessione quando andiamo a porre un elenco scandito dalle lettere A, B, C, D che vada a radunare tutte queste categorie che ci sembrano assolutamente eterogenee. La mostruosità non altera qui nessun corpo reale, non modifica in nulla il bestiario dell'immaginazione, non si nasconde entro la profondità di nessuno strano potere. Quindi la mostruosità non è in questo caso nelle cose e nelle parole che denotano le cose. Non sarebbe affatto presente in tale classificazione se non si insinuasse nell'intero spazio vuoto, nell'intero bianco interstiziale che separa gli uni dagli altri esseri. L'impossibilità non deve essere riferita agli animali favolosi, giacché vengono designati appunto come tali, quanto piuttosto alla stretta distanza, secondo cui essi vengono giustapposti ai cani in libertà e a quelli che da lontano sembrano mosche. Quindi è qui che Foucault va a parare, è qui il punto problematico di questa riflessione borghesiana, cioè il fatto che noi abbiamo un insieme di qualcosa che non combacia. Abbiamo un principio di ordine in questo elenco che in realtà non avvertiamo essere un principio di ordine in nessuna maniera. Ciò che sopravanza ogni immaginazione, ogni pensiero possibile, è soltanto la serie alfabetica, ABCD, che lega tutte le altre ognuna di queste categorie. Questo ABCD, questa tassonomia che è creata completamente e che sconvolge l'autore. Non si tratta tuttavia della bizzarria degli incontri insoliti. È noto quanto vi è sconcertante nella prossimità degli estremi o anche semplicemente nella vicinanza improvvisa delle cose senza rapporto. L'enumerazione che le fa cozzare le une contro le altre possiede in sé un potere di incantesimo. E qua Foucault introduce un altro elenco, tratto anche in questo caso da un testo letterario, il Gargantua Pantagruella. Non sono più a digiuno, disse Eustene, per tutto quest'oggi saranno al riparo della mia saliva, aspidi, anfisbene, ameniduti, abedessimoni, alatras, amobati, apinai, alatrabami, arati, asterioni, alcarati, argi, arani, ascalabi, atelabi, ascalabotia, aemorroidi. Ma tutti questi vermi e serpenti, continua Foucault, tutti questi esseri di putrefazione, di viscosità, brulicano come le sillabe che li nominano nella saliva d'Eustene. Questi hanno un luogo. È il luogo della saliva dell'autore, è la stretta distanza di cui si parlava prima, che noi possiamo incontrare nella bocca della persona che parla. Non c'è nessuna stretta distanza che possiamo incontrare tra le categorie borghesiane di prima. È qui che tutti hanno il loro luogo comune. Luogo comune non è affatto una parola che Foucault utilizza in maniera ingenua. Il luogo comune è un principio che nella filosofia del 1700, quando si inizia ad aprire lo spazio dell'estetico, cioè quando si inizia a pensare un pensiero che non sia puramente il pensiero analitico e razionale, ma sia un pensiero che ci permetta di orientarci nel mondo e di darci delle coordinate rispetto a un mondo che non è, ripeto, il mondo della logica, ma è il mondo dell'estetica, incontriamo il luogo comune. Luogo comune è qualcosa che ci permette di unire le cose, di dare un ordine alle cose, è un ordine provvisorio, un ordine spurio, non è un ordine logico, pur tuttavia è una forma d'ordine ed è qualcosa che appartiene alla filosofia estetica di quel periodo. È qui che tutti hanno il loro luogo comune, come sulla tavola operatoria l'ombrello e la macchina da cucire. Se la stranezza del loro incontro è lampante, lo è sullo sfondo di quell'è, di quell'in, di quel su, la cui solidità ed evidenza garantiscono la possibilità di una giusta posizione. Certo era improbabile che le emorroidi, i ragni e gli ammobati venissero a mescolarsi un giorno sotto i denti di Eustene, ma dopo tutto in tale bocca accogliente e vorace avevano certo di che alloggiare e di che procurarsi il palazzo della loro coesistenza. E non a caso arriva da un altro romanzo fondativo della cultura europea, il Gargantua e Pantagruel. Perché il romanzo ha questo ruolo così importante? Lo vedremo dopo andando a leggere un altro dei passaggi fondamentali delle parole e le cose che riguarda il Don Chisciotte. Il romanzo nasce nel momento in cui il linguaggio si stacca dalle cose. Il romanzo nasce nel momento in cui il linguaggio acquisisce una sua autonomia dal mondo che Foucault chiamerà rappresentazione. I due momenti sono strettamente collegati, quindi col romanzo noi creiamo dei mondi e questi mondi non sono più i mondi di cose che noi viviamo normalmente. E qua si esprime chiaramente riguardo all'elenco di Borges. La mostruosità da Borges fatta circolare nella sua enumerazione consiste invece nel fatto che proprio lo spazio comune degli incontri vi si trovi ridotto a nulla. Cioè in Borges noi abbiamo un principio di ordine, per continuare ad usare una stessa parola, che è del tutto fittizio, un principio di ordine in cui in nessuna maniera riusciamo ad identificarci. Ciò che è impossibile non è la vicinanza dalle cose, ma il sito medesimo in cui potrebbero convivere. Gli animali I che si agitano follemente, J innumerevoli, K disegnati con un pennello finissimo di peli di cammello, dove potrebbero incontrarsi se non nella voce immateriale che ne pronuncia l'enumerazione, se non sulla pagina che la trascrive? Dove possono giustapporsi se non nel non luogo del linguaggio? In questo decennio, in questa fase di pensiero, Foucault scrive tanto di letteratura, è uno dei punti fondamentali della sua riflessione, e approfondisce sempre di più il tema del linguaggio. In questo testo, nelle parole e le cose, sta andando a spiegare perché il linguaggio, il mondo delle parole, è andato ad acquisire un certo tipo di autonomia. Ma questo, il linguaggio, dispiegandoli, apre lo spazio impensabile. Pensato, non pensato, pensare l'impensato, un'altra formula foucaultiana veramente radicale. Pensare l'impensato è quell'atto creativo con cui noi tramite il linguaggio riusciamo a dare un nuovo principio d'ordine e utilizzando il linguaggio diamo a produrre immediatamente una forma di pensiero che prima non esisteva. Questo non ha una relazione con le cose, lo vedremo come. Però questo sicuramente ha una relazione col pensiero e pone un certo tipo di relazione con il mondo che viviamo. La categoria centrale degli animali, inclusi nella presente classificazione, e qua Foucault trova la finezza borghesiana di questa categoria che nell'orecchio prima magari era passata quasi liscia, mostra sufficientemente attraverso l'esplicito riferimento ai paradossi noti che non potrà mai essere definito fra ciascuno di questi insiemi e quello che li riunisce tutti un rapporto stabile da contenuto a contenente. Se tutti gli animali suddivisi rientrano senza eccezione in una delle caselle della distribuzione, tutti gli altri non sono forse in questa? E questa a sua volta in quale spazio risiede? È un cortocircuito di pensiero, un cortocircuito di linguaggio, è un cortocircuito mentale. Borges, con questo semplice elenco che Foucault pone all'inizio di un libro in cui va a investigare questi temi, semplicemente fotografa in mezza pagina uno stato di criticità del rapporto fra linguaggio, fra le parole e le cose, se vogliamo tornare a questo libro. Continuo sempre con la lettura dell'introduzione. Questo testo di Borges mi ha fatto ridere a lungo, non senza un certo malessere difficile da superare. Forse perché sulla sua scia spuntava il sospetto di un disordine peggiore che non l'incongruo e l'accostamento di ciò che non concorda. L'insinuare il disordine nel pensiero, vedremo che c'è una grossa discontinuità a un certo punto della nostra storia nell'evoluzione del nostro pensiero. Sarebbe il disordine che fa scintillare i frammenti di un gran numero di ordini possibili nella dimensione senza legge e geometria dell'eteroclito. E occorre intendere questa parola il più vicino possibile alla sua etimologia. Nell'eteroclito le cose sono coricate, posate, disposte in luoghi tanto diversi che è impossibile trovare per essi uno spazio che li accolga, definire sotto gli uni e gli altri un luogo comune. Qual è quindi il punto fondamentale di questo passaggio foucaultiano su Borges? Che dare una classificazione disordinata insinua che il principio d'ordine sia un principio d'ordine sempre relativo. Torniamo a uno dei temi caratteristici della produzione foucaultiana. Borges, nel momento in cui ci fa una classificazione che noi non riusciamo a sentire come classificazione, non surrettiziamente ci va a suggerire il fatto che probabilmente anche gli altri ordini sono qualcosa che noi abbiamo nell'orecchio, abbiamo nel pensiero, ma non hanno quel tipo di fondamento con cui noi generalmente siamo andati ad accettarli. Le cose consolano. Se infatti non hanno luogo reale, si schiudono tuttavia in uno spazio meraviglioso e liscio. Aprono città dai vasti viali, giardini ben piantati, paesi facili, anche se il loro accesso è chimerico. Le eterotopie, altro tema caratteristico foucaultiano, inquietano gli altri luoghi, senz'altro perché minano segretamente il linguaggio. perché vietano di nominare questo e quello, perché spezzano, grovigliano i nomi comuni, perché devastano anzitempo la sintassi e non soltanto quella che costruisce le frasi. Quindi non è solamente una questione di espressione verbale, ma anche quella meno manifesta che fa tenere insieme, a fianco e di fronte le une alle altre, le parole e le cose. Ripeto, la sintassi, le eterotopie inquietano perché mettono in discussione la sintassi, la giusta posizione, l'ordine grammaticale, l'ordine direi anche logico, che ci fa tenere insieme le parole e le cose. È per questo che le utopie consentono le favole e i discorsi, le utopie, non le eterotopie. Sono nella direzione giusta del linguaggio, nella dimensione fondamentale della favola. Le eterotopie, come quelle che troviamo tanto frequentemente in Borges, inaridiscono il discorso, bloccano le parole su se stesse, contestano fin dalla sua radice ogni possibilità di una grammatica, dipanano i miti e rendono sterile il lirismo delle frasi. Salto un paragrafo e arrivo a uno dei punti fondamentali che introduce il metodo di questo libro. I codici fondamentali di una cultura, e quindi possiamo riflettere anche sulla nostra cultura, sul mondo che viviamo, quelli che ne governano il linguaggio, gli schemi percettivi, gli scambi, le tecniche, i valori, la gerarchia delle sue pratiche, definiscono fin dall'inizio per ogni uomo gli ordini empirici con cui avrà da fare e in cui si ritroverà. Quindi apriamo un primo livello di esistenza che Foucault definisce ordine empirico. È quello che noi troviamo nella vita quotidiana, nel mondo delle cose, quello che gestisce il linguaggio, gli schemi percettivi, gli scambi, dice, le tecniche, i valori, la gerarchia delle sue pratiche, quel tipo di mondo che noi viviamo più che problematizzarlo, più che pensarlo. All'altro estremo del pensiero, teorie scientifiche o interpretazioni di filosofi spiegano perché esiste in genere un ordine, a quale legge generale obbedisce, quale principio può renderne conto, per quale ragione si preferisce stabilire quest'ordine e non un altro. Quindi noi abbiamo un ordine del mondo, livello base, abbiamo un livello superiore che è la costruzione logico, razionale, filosofica, scientifica, usiamo pure uno di questi aggettivi, che ci permette di collegare, di generare come sistema l'ordine empirico e di giustificarlo. Okay? Possiamo parlare di teorie filosofiche qualunque come scientifiche su questo. E questi vengono individuati da Foucault come due livelli. Però qua introduce il concetto fondamentale che governerà tutto questo libro e che vado ad utilizzare nelle 400 pagine di questo testo. Ma fra queste due regioni, così lontane l'una dall'altra, cioè una che viviamo tutti, una che possiamo bellamente ignorare, ma anche ignorandola esiste, è quella che rende giusta, si avrebbe detto forse Lutero, l'altro mondo, l'uno dall'altro si estende un campo che, per il fatto di fungere innanzitutto da intermediario, non è tuttavia meno fondamentale. Quindi abbiamo un terzo livello che si colloca fra gli altri due, fra queste due regioni. È più confuso, più oscuro, più arduo probabilmente da analizzare. Adesso andremo a vedere nei prossimi 10 minuti di quale tipo di campo si tratta. Posso chiedere a Fabio mi sia dimenticato quando mi dice quando sono le 7 come al solito? Grazie. È in esso che una cultura, scostandosi insensibilmente dagli ordini empirici che i suoi codici fondamentali prescrivono, instaurando una distanza iniziale nei loro confronti, li priva della loro trasparenza originaria, cessa di lasciarsi da essi passivamente attraversare, si distacca dai loro poteri immediati e invisibili, si libera sufficientemente per constatare che tali ordini non sono forse i soli possibili o i migliori. Quindi abbiamo dei principi d'ordine, più livelli, c'è un mondo intermedio fra questi principi d'ordine che è quello che rende, che forza questi principi d'ordine, che ci fa dubitare di essi. Come dice qui, instaura una distanza iniziale nei loro confronti, non vengono recepiti passivamente direttamente, ma riusciamo ad avere uno scatto rispetto ad essi che ci permetta di guardarli. Li priva della loro trasparenza originaria, questi ordini ci sono trasparenti, noi li viviamo, in questo campo intermedio andiamo a vederli invece come qualcosa da questionare. Cessa di lasciarsi da essi passivamente attraversare, è un campo che non si struttura, che non si adagia sugli altri ordini, ma un campo instabile rispetto a questi ordini. Si libera sufficientemente per constatare che tali ordini non sono forse i soli possibili o i migliori. Quindi ce li fa porre in discussione al punto che possiamo pensare che ve ne siano degli altri. Di modo che essa si trova di fronte al fatto che al di sotto dei suoi ordini spontanei esistono cose ordinabili a loro volta, pertinenti ad un certo ordine mutuo. In altre parole, al fatto che esiste un certo ordine. È qui che andiamo quindi alla scoperta dell'ordine delle cose. Come se, affrancandosi parzialmente dalle proprie griglie linguistiche, percettive e pratiche, la cultura applicasse su queste una griglia seconda che le neutralizza e che, duplicandole, le fa apparire al tempo stesso le esclude, e si trovasse perciò stesso di fronte all'essere grezzo dell'ordine, cioè ci fa apparire l'ordine in quanto tale, questo sommovimento dell'ordine. È nel nome di tale ordine che i codici del linguaggio, della percezione, della pratica vengono criticati e resi parzialmente invalidi. È sullo sfondo di tale ordine, considerato come terreno positivo, che verranno edificate le teorie generali dell'ordinamento delle cose e le interpretazioni richieste da tale ordinamento. Vi leggo questo passaggio perché metodologicamente per questo testo è fondamentale. È sullo sfondo di tale ordine, quindi di questo ordine oscillante, di questo ordine fuori asse rispetto agli altri ordini, considerato come terreno positivo. La parola positivo qui ha un senso ben preciso. Come aveva spiegato Antonio Caronia la volta scorsa, Hegel, Foucault conosceva Hegel tramite la traduzione di tramite la lettura di Coyer. La positività è una parola assolutamente hegeliana. Positività è ciò che si dà, si manifesta nel reale. Possiamo dirlo, usando delle parole che Hegel non sarebbero piaciute tantissimo, ma che lo rendono chiare, le positività sono le cose che storicamente si danno e si sono date, che sono apparse. E quindi Foucault sta dicendo in questo caso, è sullo sfondo di tale ordine, considerato come terreno positivo, cioè come qualcosa che abbiamo trovato a un certo punto nella storia, che verranno edificate le teorie generali dell'ordinamento delle cose e le interpretazioni richieste da tale ordinamento. Le teorie generali dell'ordinamento delle cose sono il principio fondamentale che andiamo a vedere nella prossima ora. Esiste quindi, fra lo sguardo già codificato e la conoscenza riflessiva, una regione mediana che offre l'ordine nel suo essere stesso. L'ordine vi appare, a seconda delle culture e delle epoche, continuo e graduato, frammentato e discontinuo, legato allo spazio o costituito ad ogni istante dalla spinta del tempo. Quindi differenti modalità di ordine possiamo trovare. Non stiamo andando a cercare l'ordine fondamentale, anzi, proprio secondo la caratteristica foucaultiana, stiamo andando a vedere la genesi degli ordini al plurale, imparentato a un quadro di variabili o definito da sistemi separati di coerenze, composto da somiglianze che si succedono in corrispondenza della loro prossimità o si rispondono specularmente. In questo studio intendiamo analizzare tale esperienza. Vuole analizzare Foucault questa esperienza dell'ordine. E qua entriamo nello specifico di questo testo. Si tratta di mostrare ciò che essa è diventata, il soggetto e l'esperienza dell'ordine, dopo il XVI secolo, in una cultura come la nostra. In che modo la nostra cultura, risalendo per così dire il controcorrente, il linguaggio quale era parlato, gli esseri naturali quali erano percepiti e raggruppati, gli scambi quali erano praticati, abbia manifestato la presenza di un ordine e il fatto che alle modalità di tale ordine gli scambi dovessero le loro leggi, gli esseri viventi la loro regolarità, le parole il loro concatenamento, il loro valore rappresentativo. Un passaggio molto denso. Allora, ci sono tre linee di ricerca fondamentali. Il linguaggio qual era parlato? Gli esseri naturali, noi, in altri passaggi, la domanda iniziale di questo libro, l'uomo come invenzione recente, quando è stato inventato. Gli scambi quali erano praticati? Quindi, tre linee, che vengono investigate su un periodo storico che parte dal 1600, e che vengono investigate alla ricerca di un ordine che li abbia resi tali, che ce li abbia consegnati come tali, ma che vedremo storicamente abbiamo ereditato in una maniera diversa, o meglio, la formulazione era del tutto scorretta, che storicamente si sono andati a sviluppare in maniera che noi oggi andiamo a viverle, queste tre cose, il linguaggio, la vita e il lavoro, in una maniera che si è strutturata storicamente. È chiaro che un'analisi del genere non rientra nella storia delle idee o delle scienze. Questo Foucault come storico delle idee, Foucault come scienziato politico, no, lo dice già nel 1966 Foucault, non sono uno storico delle idee, non sono uno scienziato, se vogliamo, politico. È piuttosto uno studio che tende a ritrovare ciò a partire da cui conoscenze e teorie sono state possibili. Quindi non è il lavoro dello storico che esplicita, non è il lavoro dello storico delle idee che rende visibile e manifesto ciò che è stato, è il lavoro dell'archeologo. Il sottotitolo di questo libro è un'archeologia delle scienze umane, le tre scienze di cui parlavamo, che hanno come oggetti ciò di cui parlavamo prima, linguaggio, vita, lavoro, e il lavoro dell'archeologo è quello di ritrovare ciò a partire da cui conoscenze e teorie sono state possibili. Poi vedremo come il lavoro dell'archeologo degli anni 60 diventa il lavoro genealogico, perdonatemi, degli anni 70. In base a quale spazio di ordine si è costituito il sapere? Di nuovo, in Foucault le parole sono importanti. Il sapere non è dato, il sapere si costituisce. E lui in questo libro vuole capire qual è questo campo, questo spazio d'ordine in cui il nostro sapere occidentale è andato a costituirsi. Sullo sfondo di quale a priori storico e nell'elemento di quale positività idee potevano apparire, scienze costituirsi, esperienze riflettersi in filosofie, razionalità formarsi per subito forse disfarsi e svanire. Ripeto, perché ancora qua abbiamo un altro passaggio importantissimo. Sullo sfondo di quale a priori storico? Questo accostamento di un aggettivo e di un sostantivo non è per niente banale, è un accostamento che dal punto di vista della storia della filosofia, del pensiero è radicale, molto forte. Foucault vuole andare a vedere sullo sfondo di quale a priori storico, la storia, quindi il nostro passato, quindi qualcosa che realmente si è dato, ok? Prima di tutto. Secondo punto, l'a priori. L'a priori non è una parola che Foucault qua utilizza ingenuamente, è una parola che Foucault considera a partire dal senso kantiano che viene dato a questa parola. L'a priori come qualcosa che condiziona, che struttura quello che sta sopra. Vedremo poi la lettura di Kant, un'importante lettura di Kant nella seconda parte del lavoro. E poi, nell'elemento di quale positività. Quindi ciò di cui parliamo in questo libro sono cose che effettivamente si sono date, sono cose che gli uomini hanno incontrato nella loro storia, le positività hegeliane di cui parlavamo prima. E che cosa andiamo a vedere? Idee potevano apparire, scienze costituirsi, esperienze riflettersi in filosofie, razionalità formarsi. Quindi, c'è un qualcosa, le idee, le scienze, le razionalità, eccetera, eccetera, ma lo scopo di questo libro non è fare la storia di questo, ma è andare a scavare quella a priori, quella condizione di possibilità che storicamente ha reso possibile l'apparire di tutto questo. Non verranno quindi descritte conoscenze nel loro progresso verso un'obiettività, in cui la nostra scienza odierna potrebbe da ultimo riconoscersi. Quindi esclude ogni linea di progresso, Foucault. C'è un passaggio molto bello, assolutamente radicale, in cui lui dice anni dopo, non mi ricordo quando, io considero la storia, tra parentesi, non lo dice ma lo dice prima, la storia individuale, la storia collettiva, la storia in generale, come una successione caotica di catastrofi, di crolli, di discontinuità. È quella la sua concezione della storia e forse anche della vita. Qualsiasi idea di progresso nel pensiero foucaultiano è assolutamente esclusa. Verso un'obiettività in cui la nostra scienza odierna potrebbe da ultimo riconoscersi. E qua Foucault tira sempre un'altra martellata contro l'idea di un asintoto verso cui il pensiero scientifico potrebbe andare a porsi. Foucault sta dicendo che sono esistiti storicamente degli a priori storici che hanno consentito di generare dei sistemi di pensiero. E questo succede in maniera, lo dirà poi, assolutamente discontinua. Quindi l'idea che si stia tendendo verso qualcosa è un'idea assolutamente falsa. Ciò che vorremmo mettere in luce è il campo epistemologico, l'episteme. Prima leggo queste quattro righe, poi torniamo sull'episteme perché è la parola più importante introdotta in questo libro. L'episteme, parola greca, già platonica, in realtà piuttosto difficile da tradurre, come tutte le parole importanti da vita, da arte, a scienza, nelle lingue latine. In effetti l'episteme è Platone a un certo punto ne parla come del livello di pensiero più alto, forzando un pochino la definizione del livello più razionale di tutti. La traduzione immediata di episteme potrebbe essere scienza, però per noi ormai nella parola scienza si è accumulato così tanto significato che rischia di essere fuorviante. Forse è opportuno leggere episteme, cioè sapere che l'episteme è una forma di pensiero potente, ma leggerla nel senso in cui ne parla Foucault adesso. L'episteme in cui le conoscenze, considerate al di fuori di ogni riferimento, al loro valore razionale, alle loro forme oggettive, affondano la loro positività, manifestando, scusatemi, in tal modo una storia che non coincide con quella della loro perfezione crescente, ma è piuttosto la storia delle loro condizioni di possibilità. Quindi, l'episteme è un campo in cui le conoscenze, ciò che sappiamo, ciò che conosciamo, prescindendo da qualsiasi valore di razionalità o di oggettività, affondano la loro positività, cioè il fatto che a un certo punto sono apparse, sono esistite, si sono costituite, manifestando in tal modo una storia che non coincide con quella della loro perfezione crescente, quindi non c'è nessuna linea da tracciare, ma è piuttosto la storia delle loro condizioni di possibilità. Quindi dobbiamo andare a vedere questa serie di relazioni che storicamente, secondo i tre assi di cui abbiamo parlato prima, hanno consentito la nascita di un tipo di pensiero. Grazie. Ciò che in tale narrazione deve apparire sono, entro lo spazio del sapere, le configurazioni che hanno dato luogo alle varie forme della conoscenza empirica. All'interno dello spazio del sapere, qual punto importante? Più che una storia nel senso tradizionale della parola, si tratta di una archeologia. L'archeologia delle scienze umane, che è il sottotitolo di questo libro e che è il titolo del libro successivo di Foucault. Cos'è l'archeologia? È l'indagine sulla priori storico che ha permesso la nascita di determinate conoscenze. Conoscenze che non si dispongono mai su un flusso lineare, su un flusso che ha una direzione in un determinato senso, ma che dobbiamo andare a vedere storicamente come sono nate e dove sono nate. Quindi abbiamo individuato l'episteme come campo di indagine e l'archeologia come metodo di indagine. Questo è il presupposto metodologico di questo testo, le parole e le cose. Qual è il contenuto del libro? Ne parla Foucault immediatamente dopo. Tale indagine archeologica ha indicato due grandi discontinuità nell'episteme della cultura occidentale. Quella che inaugura l'età classica verso la metà del XVII secolo e quella che agli inizi del XIX segna l'inizio della nostra modernità. Quindi, abbiamo delineati tre epistemi, tre momenti storicamente. Il primo lo chiamiamo, se vogliamo, Rinascimento, la prima parte di questo libro, le prime 80 pagine. Il Rinascimento finisce in maniera discontinua verso la metà del XVII secolo, da questa data. Non a caso René Descartes muore nel 1650. Quindi un periodo storico che ha un termine all'inizio del XVII secolo per aprire un'altra epoca, quella che Foucault chiama età classica. Non è il classico come ne parlava Antonio Caronia la scorsa settimana, è il classico inteso in un altro senso. Quindi abbiamo un'età classica che inizia all'inizio del 1600 e che finisce all'inizio del 1800, quando inizia l'età moderna. Kant è il punto di passaggio dall'età classica all'età moderna. Perché Foucault non lo dice? Perché ci sono queste discontinuità? Non lo spiega in questo libro, non lo spiegherà mai e non fa parte del suo interesse spiegare queste discontinuità. Fa parte del suo interesse trovare lo sfondo che costruisce i momenti discontinui. Non fa parte del suo interesse dire, puntare il dito, indicare la data in cui a un certo punto il Rinascimento si converte nell'età classica e l'età classica si converte nell'età moderna. Questo è un principio di metodo che bisogna accettare di questo libro, cioè ci sono stati tre momenti, c'è una discontinuità grossa tra questi tre momenti, il perché sia accaduta non è oggetto dell'analisi di questo libro. Taglio un passaggio abbastanza forte in cui inizia ad accennare ciò di cui parlerà e vado alla fine del paragrafo successivo. Le conoscenze possono forse generarsi, le idee trasformarsi e agire le une sulle altre, ma come gli storici non ce l'hanno ancora detto. Una cosa è comunque certa. L'archeologia, nel volgersi allo spazio generale del sapere, alle sue configurazioni e al modo d'essere delle cose che vi compaiono, definisce sia certi sistemi di simultaneità, sia la serie delle mutazioni necessarie e sufficienti per circoscrivere il passaggio a una positività nuova. Quindi l'archeologia, ripeto, abbiamo un campo epistemologico, l'episteme, un metodo di indagine che è l'archeologia e abbiamo un risultato dell'archeologia. Nel volgersi allo spazio generale del sapere, l'oggetto globale di interesse di Foucault in questo testo è il sapere, solamente 10 anni dopo introdurrà il potere, alle sue configurazioni, al modo d'essere delle cose che vi compaiono, definisce cosa? Sia certi sistemi di simultaneità. La parola simultaneità è assolutamente fondamentale perché è la simultaneità delle relazioni che costruisce il campo epistemologico. Cioè è il fatto che in un determinato momento noi troviamo una teoria dell'uomo, una teoria degli esseri viventi strutturata in una certa maniera e possiamo costruire nel campo epistemico una serie di relazioni simultanee con la teoria della moneta che va a strutturarsi in una maniera diversa, o con la teoria del linguaggio che va a strutturarsi in una maniera diversa ancora. Questo è l'episteme, è il fatto che noi poggiamo sul campo epistemologico qualcosa che di per sé è differente ma che ci è possibile associare simultaneamente. sia, però ci fa vedere, non questo sistema come cristallizzato, sistema è una parola sbagliata, non questo campo su cui si adagiano i pensieri come qualcosa di cristallizzato, ma ce li fa vedere anche in relazione alle mutazioni necessarie e sufficienti per circoscrivere il passaggio a una positività nuova. Ci fa vedere dove il sistema scricchiola. Ripeto, non ci spiega perché scricchiola. Quel livello di analisi qui non c'è, ci mostra il perché scricchiola e il perché sta andando in una determinata direzione. Ora, andrei verso la fine dell'introduzione, perché poi andiamo a vedere le parole chiave delle tre epistemi che caratterizzano il Rinascimento, età classica, età moderna, lo vedremo la prossima volta. Vediamo quindi che questa ricerca corrisponde un po' riecheggiandola al progetto di scrivere una storia della follia nell'età classica, qua si riallaccia al suo testo di 5 anni prima. Possiede nel tempo le stesse articolazioni in quanto prende l'avvio dalla fine del Rinascimento e arriva anch'essa alla svolta del XIX secolo, alla soglia di una modernità da cui non siamo ancora usciti. Questa modernità da cui non siamo ancora usciti non è una riflessione banale. Mentre nella storia, anzi forse è una delle riflessioni assolutamente fondanti per cui questo testo è importante nel percorso che stiamo facendo sul soggetto. Mentre nella storia della follia si ricercava il modo in cui una cultura può porre in forma generale e massiccia la diversità che la limita, la follia appunto, si tratta ora di osservare il modo in cui essa sperimenta l'affinità delle cose, il modo in cui instaura il quadro delle parentele e l'ordine in cui bisogna seguirle. Si tratta, insomma, di una storia della somiglianza, altra parola chiave di questo testo. Somiglianza che vedremo è un concetto sfumato, un concetto che si evolve, non è qualcosa che è possibile definire in una maniera così rigida. A quali condizioni il pensiero classico ha potuto riflettere fra le cose rapporti di similarità o di equivalenze, tali da fondare e giustificare le parole, le classificazioni, gli scambi? Ripeto, a quali condizioni il pensiero classico ha potuto riflettere fra le cose, fra il mondo delle cose, rapporti di similarità o di equivalenze tali da fondare e giustificare le parole, le classificazioni, gli scambi. Usando un esempio un po' gretto, perché questo e questo si avvicinano e questo magari no? Non è, l'esempio fa abbastanza schifo in effetti, però è questo la relazione tra le cose e la somiglianza tra le cose che Foucault sta cercando di portare alla luce. Qual è l'a priori che porta a questo? Okay. La storia della follia sarebbe la storia dell'altro, di ciò che per una cultura è interno e allo stesso tempo estraneo e perciò da escludere, ma includendolo al fine di ridurne l'estraneità. La storia dell'ordine delle cose sarebbe la storia del medesimo, di ciò che per una cultura è un tempo disperso e imparentato, è un tempo diverso ma si assomiglia, e quindi da distinguere mediante contrassegni e da unificare entro identità. E la parola somiglianza, anche in questo caso, giusto per, è una parola che esiste nel pensiero occidentale tanto, esiste nel pensiero filosofico greco ed esiste nella tradizione giudaico-cristiana. Somiglianza è una delle parole fondamentali nell'ambito greco, è eleikos, è ciò che viene tradotto generalmente con verosimile, è ciò che contiene la radice ik, essere simile a, assomigliare a, su cui si struttura la parola icona, da cui noi deriviamo il nostro concetto di immagine. È il verosimile di cui parla Aristotele nella Poetica quando parla del teatro, cioè il teatro non risponde alla causalità della storia, non risponde alla necessità della scienza, ma risponde alla verosimiglianza della vita. E allo stesso tempo somiglianza è una parola assolutamente fondamentale per l'altra grande tradizione culturale del mondo occidentale, per il mondo cristiano, meglio, il mondo giudaico prima, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, in cui quando la Bibbia viene tradotta in greco non si usa la radice ik, che è una radice troppo legata al mondo delle cose, ma si usa una parola molto più altisonante che è l'homoiousis, cioè l'identità fra sostanze. Quindi quando stiamo parlando di somiglianza non stiamo parlando di un concetto leggero, stiamo parlando di ciò che ci dà l'ordine al mondo e di ciò che nella filosofia da sempre rimane come uno sfondo possibile, come un possibile legame per l'ordine del mondo. E se pensiamo che la malattia non è soltanto il disordine, la pericolosa alterità entro il corpo umano e persino entro il cuore della vita, ma anche un fenomeno di natura che ha le sue regolarità, le sue somiglianze e i suoi tipi, è evidente l'importanza che potrebbe assumere un'archeologia dello sguardo medico. Dall'esperienza limite dell'altro alle forme costitutive del sapere medico e da queste all'ordine delle cose e al pensiero del medesimo, l'analisi archeologica accoglie l'intero sapere classico piuttosto ciò che ci separa dal pensiero classico e costituisce la nostra modernità. Su tale soglia apparve per la prima volta una strana figura del sapere chiamata uomo. Siamo in fondo all'introduzione e qui Foucault ci sta dicendo in maniera molto chiara quello che alla fine è il suo interesse. Cos'è quest'uomo, quest homme in francese di cui noi parliamo? Uomo inteso nel senso dell'antropos di cui parlava Antonio Caronia nel primo appuntamento, cioè di questa percezione che noi abbiamo di noi stessi in una certa maniera, che noi abbiamo però non più come antropoi, come greci, ma che abbiamo come individui del XXI secolo in questo caso, schiudendo uno spazio proprio alle scienze umane. Ed ecco l'altro punto fondamentale. Perché si è dato storicamente qualcosa che noi chiamiamo scienze umane? Perché non abbiamo parlato solo di sassi o di papere o di astronomia o di leggi della matematica, ma a un certo punto abbiamo accostato la parola scienza alla parola uomo? Questo libro è l'archeologia delle scienze umane, cioè cerca di delineare l'a priori storico le condizioni di possibilità per cui sono nate le scienze dell'uomo. Questo ibrido strano fra una creatura instabile come l'uomo, creatura sarebbe una parola che Foucault non avrebbe mai usato in questo libro, giustamente, e la scienza. Tentando di riportare alla luce questo profondo dislivello della cultura occidentale, non facciamo altro che restituire al nostro suolo silenzioso e illusoriamente immobile le sue rotture, la sua instabilità, le sue imperfezioni. E sotto i nostri passi, di nuovo, si turba. Quindi far vedere che l'ordine è in realtà un ordine instabile, che l'ordine nasconde sempre come suo lato oscuro un disordine, che l'ordine fondamentalmente è una finzione, è una creazione umana, che qualsiasi principio d'ordine, come diceva appunto il Lévi-Strauss di Tristi Tropici, l'uomo è comparso, sto citando malissimo, l'ho già citata forse, l'uomo è comparso dopo la nascita della terra, del mondo, e scomparirà fino alla fine del mondo. Quindi questo principio di instabilità e di temporaneità che caratterizza l'opera di Foucault. E allora, qual è l'episteme più vecchia di tutte? Qua Dreyfus e Rabino, in questo testo che abbiamo consigliato come fil rouge da seguire, dedica una trentina di pagine all'archeologia delle scienze umane, quindi stiamo parlando da pagina 64 a pagina 93, per chi volesse invece di leggersi tutte queste 400 pagine trovare un riassunto abbastanza efficace. L'episteme più antica, quella del Rinascimento, viene definita la prosa del mondo. Foucault è un bravo affabulatore e intitola uno dei capitoli più belli di questo libro La prosa del mondo, caratterizzata, e qui è il punto fondamentale, dall'unità di parole e cose. Nel mondo rinascimentale le parole e le cose si situano sullo stesso piano, in un continuo intreccio di rassomiglianze. Cioè non abbiamo due livelli, probabilmente una forzatura usare la parola ontologici, due livelli d'essere differenti. Semplicemente per l'uomo rinascimentale le parole e le cose vivono sulla stessa superficie e dialogano sulla stessa superficie. L'uomo del Rinascimento pensava in termini di somiglianza. Su questo vorrei leggere proprio l'inizio della prosa del mondo. Sino alla fine del XVI secolo, la somiglianza ha svolto una parte costruttiva nel sapere della cultura occidentale. È essa che ha guidato in gran parte l'esegesi e l'interpretazione dei testi. È essa che ha organizzato il gioco dei simboli, permesso la conoscenza delle cose visibili ed invisibili, regolato l'arte di rappresentarle. Cioè, questo continuo gioco, questo continuo scambio tra parole e cose, tra linguaggio e mondo. Il mondo si avvolgeva su se medesimo. La terra ripeteva il cielo, i volti si contemplavano nelle stelle e l'erba accoglieva nei suoi steli i segreti che servivano all'uomo. La pittura imitava lo spazio e la rappresentazione, parola fondamentale nella seconda episteme, fosse esta, festa o sapere, si offriva come ripetizione. Teatro della vita o specchio del mondo. Tale era il titolo di ogni linguaggio, il suo modo di annunciarsi e di formulare il suo diritto di parlare. È il mondo magico, il mondo in cui le parole possono influenzare le cose. È il mondo in cui esistono le etimologie assolutamente fantasiose dei pensatori medievali, in cui Isidoro di Siviglia spiega l'etimologia di sole dicendo che è Solus nel firmamento terrestre, cioè che c'è solo lui che ha quell'entità. È il mondo di cui, no, ci arriviamo un attimo dopo, perché questo mondo? Foucault non lo dice. In realtà il rapporto fra verbo e mondo è un rapporto complesso nel mondo occidentale, è un rapporto in cui di nuovo il cristianesimo la teologia cristiana modella questo principio in maniera piuttosto forte, perché è un rapporto assolutamente problematico. Quando Giovanni, o pochi per lui, un centinaio d'anni dopo la nascita di Cristo, scrive il suo Vangelo e pone il famoso inizio al principio, en archeno logos, in principio era il verbo. Il verbo di cui sta parlando è un principio assolutamente problematico, perché nel momento in cui il pensiero platonico, che codifica l'iperuranio, si innesta tramite l'agnosi, poi tramite Giovanni in parte, ma soprattutto tramite Origene, nel III secolo, nel pensiero cristiano, noi ci veniamo a trovare in un mondo scisso, nel mondo di Dio, vero, giusto, bello, santo, e nel mondo umano, transeunte, parziale, malato, cattivo e tutto quello che vogliamo, ok? E quindi questo logos di Giovanni è difficile collocarlo nel mondo in cui noi viviamo. E allora dov'è il mondo in cui il logos di Giovanni si colloca? È un mondo complesso, perché sempre nel prologo del Vangelo Dio si fa carne e abita tra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, quindi c'è un principio di visibilità nella figura di Cristo. Non siamo nel Dio absconditus, nel Dio ebraico che non possiamo raggiungere. Però quando si va a definire dov'è il verbo, e abbiamo bisogno di un sostrato materiale per il verbo, il libro con la L maiuscola, la Bibbia, diventa il luogo in cui si deposita il verbo. La parola diventa il mondo della verità, la parola rivelata, in opposizione al mondo in continua evoluzione che noi viviamo. Ritorno sul testo di Foucault, perché questa è un'altra linea, per dire cosa? Che ci troviamo comunque in un mondo instabile, però Foucault continua. Esistono quattro tipi di similitudine: la convenienza, l'emulatio, l'analogia, la simpatia, riassunte benissimo anche nelle 30 paginette del libro di Dreyfus e Rabino. Però vorrei sottolineare questo. L'episteme della similitudine aveva anche un idioma cognitivo di tipo speciale, la segnatura. il segno di tutte le similitudini. La conoscenza rinascimentale ipotizzava che Dio avesse posto un marchio o segnatura sulle cose in modo da manifestare le loro reciproche rassomiglianze. Quindi, in questo rapporto instabile tra parole e cose, le cose sono cose, vivono nello stesso mondo in cui vivono le parole, però c'è questa segnatura, c'è un qualcosa che Dio ha posto che ci dovrebbe far capire le somiglianze. C'è questo testo di Giorgio Gamben, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2008, Signatura Rerum, sul metodo, che parla diffusamente di questo. Vorrei leggere solamente un breve paragrafo. Il libro 9 del Trattato di Paracelso, De Natura Rerum, si intitola De Signatura Rerum Naturalium, la signatura delle cose naturali. L'idea che tutte le cose portino un segno, attenzione, non è il segno sossuriano, stiamo parlando di qualcosa di completamente diverso, che manifesta e rivela le loro qualità invisibili, è il nucleo originale dell'episteme paracelsiana. Nulla è senza un segno. Egli scrive in Von der natürlichen Dingen, poiché la natura non lascia uscire da sé nulla in cui essa non abbia segnato ciò che in esso si trova. Perché non è più il mondo platonico di cui si parlava prima? Perché il mondo platonico ha un'evoluzione, ha l'evoluzione neoplatonica, in cui noi possiamo partire dalla scala della materia, dal livello della materia, e possiamo ritrovare tanti livelli nel mondo, e per arrivare a Dio noi non dobbiamo fare nient'altro che, in questo sistema neoplatonico, ripercorrere verso l'alto i livelli del mondo. La segnatura è ciò che ci permette il passaggio da un livello all'altro, è questo sistema di interconnessione che ogni cosa porta con sé e che noi dobbiamo imparare a leggere. Non vi è nulla di esteriore che non sia annuncio dell'interno, recita Liber de Podagricis, e attraverso i segni l'uomo può conoscere ciò che in ogni cosa è stato segnato. E se in questo senso tutte le cose, erbe, semi, pietre, radici, dischiudono nelle loro qualità, forme, figure, ciò che è in esse, se vengono tutte conosciute attraverso il loro signatum, allora signatura è la scienza attraverso cui tutto ciò che è nascosto viene trovato, e senza quest'arte non si può fare nulla di profondo. Paracelso è alchimista, però la signatura è un principio assolutamente trasversale a tutta una serie di pensiero. Questa scienza è tuttavia, come ogni sapere, una conseguenza del peccato, perché Adamo nell'Eden era assolutamente non segnato, e tale sarebbe rimasto se non fosse caduto nella natura che non lascia nulla non segnato. E quindi questa è la prosa del mondo, è il racconto del mondo, è il racconto in cui abbiamo su uno stesso piano le parole e le cose, e all'interno di questo piano abbiamo le segnature che le connettono tra di loro. Poi il paradigma si rompe, paradigma è un'altra parola un po' impropria, l'episteme, come direbbe Foucault, si rompe. Cambia a priori storico, cambia qualcosa. Improvvisamente nel XVII secolo questo episteme della conoscenza crolla. L'attività della mente, scrive Foucault, non consisterà più ormai nell'avvicinare le cose tra di loro, nel mettersi alla ricerca di tutto ciò che in esse può rivelare una sorta di parentela, ma al contrario nel discernere, cioè nello stabilire le identità. Cioè, mentre l'uomo del Rinascimento va alla ricerca delle connessioni tra le cose, l'uomo dell'età classica va alla ricerca della differenza tra le cose. Ricercando la differenza tra le cose, va a identificarle come singole, attribuisce loro un'identità. Quindi non cerchiamo più di unire, ma secondo un movimento opposto andiamo a dividere. Dividendo stabiliamo l'identità delle cose. Come dice un quasi contemporaneo di Cartesio, Spinoza, che forse citavo due volte fa, omnis determinatio est negatio. Ogni determinazione, cioè ogni volta che noi andiamo a dire tu sei tu, stiamo allo stesso tempo dicendo tu sei, non sei tutto quell'altro che non sei. Ok? È questo pensiero divisorio che Foucault colloca all'interno dell'età classica. In sintesi entra in scena la rappresentazione. Con chi entra in scena la rappresentazione? Entra in scena in Spagna, con il Don Chisciotte. Ogni episodio, sono in fondo a pagina 61. Di nuovo, il Don Chisciotte, come Las Meninas, che vedremo dopo, non sono dei... Non è assolutamente da equivocare questo punto. Non sono ciò che fa scatenare qualcosa. Sono una maniera in cui Foucault, in una... narrativamente, poeticamente, direi, proprio con quasi un atto di creazione, va a scegliere e spiegare dei momenti assolutamente particolari che ben rappresentano queste discontinuità, questi passaggi. E quindi Don Chisciotte è una fotografia di questa nuova episteme. Ogni episodio, ogni decisione, ogni impresa saranno segni del fatto che Don Chisciotte è realmente somigliante a tutti i segni da lui ricalcati. Ma se vuole essere loro somigliante è perché deve dimostrarli. E qua c'è una frase fondamentale. È perché ormai i segni leggibili non somigliano più agli esseri visibili. Il Don Chisciotte è il libro in cui il mondo del visibile e il mondo del dicibile non si parlano più, in cui, usando un'espressione vicino all'ermeneutica, ciò che viene detto non è ciò che viene visto non è ciò che viene detto, in cui il mondo del linguaggio si stacca, esce dal mondo delle cose ed entra nel mondo autonomo tramite la rappresentazione. Tutti quei testi scritti, tutti quei romanzi stravaganti sono appunto senza uguali. Nessuno al mondo è mai stato ad essi somigliante. Il mondo dei romanzi cavallereschi, di cui Don Chisciotte è totalmente imbevuto, e Don Chisciotte è questo, è un mondo che ha perso il contatto con il mondo vero. È il mondo della finzione letteraria, è il mondo della finzione del linguaggio. Don Chisciotte è il personaggio che naufraga perché vive questa scissione, perché tenta nella sua vita di tenere insieme questa scissione e finisce per combattere con il mulini a vento. È il personaggio che tenta di vivere ancora questa scissione, è il personaggio che vive nel mondo delle parole e delle cose, ma questa scissione per lui è lo scacco, perché la realtà romanzesca in cui lui crede che è la sua vita diventa la battaglia contro i mulini a vento. Il loro linguaggio infinito resta in sospeso, senza che alcuna similitudine arrivi mai a riempirlo. Di nuovo, sempre da Don Chisciotte, fine di pagina 62. Don Chisciotte traccia il negativo del mondo del Rinascimento. La scrittura ha cessato di essere la prosa del mondo. Le somiglianze e i segni hanno sciolto la loro antica intesa. Le similitudini deludono, inclinano alla visione e al delirio. Le cose restano ostinatamente nella loro ironica identità. Il mulino vento è il mulino vento, non è più il segno di qualcos'altro. Sono soltanto quello che sono. Le parole vagano all'avventura, prive di contenuto, prive di somiglianza che le riempia. Non contrassegnano più le cose, dormono tra le pagine dei libri in mezzo alla polvere. Ultimo passaggio del Don Chisciotte. Don Chisciotte è la prima delle opere moderne. Don Chisciotte, dai teorici del romanzo, viene considerato proprio il punto di svolta. È il romanzo su cui l'Occidente, forse con l'antecedente di Gargantua e Pantagruel, fonda la propria tradizione. Poiché in essa si vede la crudele ragione delle identità, cioè le cose che dicono tu sei questo e non sei qualcos'altro, e delle differenze, deridere all'infinito segni e similitudini, poiché il linguaggio in essa spezza la sua vecchia parentela con le cose, per entrare in quella sovranità solitaria, un'espressione bellissima questa. Il linguaggio spezza la sua vecchia parentela con le cose per entrare in quella sovranità solitaria da cui vi apparirà nel suo essere scosceso solo dopo che è diventato letteratura. E quindi, con il Don Chisciotte noi vediamo rappresentato un nuovo tipo di episteme, l'episteme che caratterizza l'età classica, l'episteme basata sul principio di identità e differenza, l'episteme basata sulla rappresentazione. Lo stesso idioma cognitivo, il linguaggio della conoscenza, viene ora visto in una luce diversa. L'episteme classico concepiva la significazione come un regime binario. Questo non è più Foucault, sono appunti che ho scritto, trovato, rimaneggiato e preso da Dreyfus e Rabino. Il linguaggio concepito come trasparente e di conseguenza non vi è più nessuna ipotesi per legami nascosti. Chiusura. La divinatio, cioè la capacità di agire tramite il linguaggio sulle cose, viene presto eliminata dalla sfera della conoscenza legittima. Chiaramente in questo mondo in cui parole e cose non si adagiano più su uno stesso piano, la capacità tramite le parole di agire sul mondo, cosa che è propria del Rinascimento, crolla. Perché stiamo facendo questo percorso? Perché questo è il percorso che porta alla nascita dell'uomo, cioè sono dei passaggi, la lezione di oggi è propedeutica a quella della prossima volta, però sono i passaggi che mettono ordine, con un brutto gioco di parole, a un tipo di evoluzione anche questa è una parola sbagliata, a quelle fratture che hanno portato alla nascita dell'uomo. Adesso stiamo lavorando su un determinato periodo e qui si viene ad introdurre l'apertura delle parole e le cose, cioè una delle più famose ekphrasis in assoluto di descrizioni di quadri che ci siano nella storia della filosofia e nella storia della letteratura, che sono le pagine che Foucault dedica a Las Meninas di Velázquez, quadro del 1656, di cui ho messo una riproduzione nella dispensa. Quadro appunto del 1656, il momento, un momento in cui ormai l'età classica si è codificata. Foucault fa una lettura di questo quadro un po' tendenziosa, cioè fa una lettura meravigliosa allo stesso tempo, super affascinante per certi versi, ma è chiaro il fine teleologico verso cui mira la lettura di questo quadro da parte di Foucault. La sua spiegazione del dipinto, come scrivono Dreyfus e Rabino, serve a tematizzare la struttura del sapere nell'età classica. Che cosa c'è in questo dipinto? È un dipinto innanzitutto complesso al quadro, al Prado di Madrid, esposto forse 3 metri per 2,5 metri, si era cercata la volta scorsa le dimensioni. Rappresenta un pittore Velázquez stesso durante una pausa. Vediamo un quadro sul retro, non vedremo mai che cosa il pittore sta dipingendo. Il pittore guarda lo spettatore e tiene il pennello in mano in un momento di riposo. Nella parte centrale della scena abbiamo appunto Las Meninas, le damigelle, ma quello che interessa maggiormente sono le figure sullo sfondo. Abbiamo la presenza di un'eterotopia fortissima, come avrebbe detto Foucault, lo specchio. Lo specchio in cui compaiono due figure, che sono Filippo IV e la regina Marianna, se ricordo bene i nomi, sono due figure che compaiono solo in questo specchio. Se andiamo a ricostruire la figura del quadro, la prospettiva del quadro, sono due figure che stanno al di fuori della rappresentazione e che si collocano nello spazio dello spettatore. Dovrebbero essere le figure che, ricostruendo tutta la rete di relazioni, il pittore sta guardando nella pittura del suo quadro. Quindi il quadro che noi non vediamo all'interno della Las Meninas dovrebbe essere un ritratto di questi due sovrani. E poi abbiamo una porta con un personaggio che sta uscendo da questo quadro e che troviamo nel punto di fuga del quadro stesso. Abbiamo un accavallamento di piani mostruoso all'interno di questo quadro. Qual è la conseguenza? Adesso non vorrei, tra l'altro il testo le pagine sulla Las Meninas si trovano comunemente online. Che cosa rappresenta questo quadro secondo Foucault? Il paradosso centrale del dipinto è costituito dall'impossibilità di rappresentare l'atto della rappresentazione. Perché c'è questa impossibilità di rappresentare l'atto della rappresentazione? Come la giustifica Foucault questa sezione? La giustifica spiegando come ci sia questo accavallamento insoluto per cui il momento stesso della rappresentazione non può essere colto in sé. Abbiamo una triplice linea all'interno di questo quadro di Las Meninas. La linea del pittore che non sta dipingendo il soggetto che ha in quel momento di fronte. Qual è il soggetto che abbiamo di fronte? Secondo punto, è il soggetto che troviamo in un quadro, ma che va a collocarsi in uno spazio che, guarda caso, è uno spazio fuori dal quadro, che è lo spazio che dovrebbe essere occupato dallo spettatore. Spettatore, terzo punto, che trova un terzo dirimpettaio nella figura che sta uscendo di scena dal quadro. Abbiamo tre piani non coincidenti tra di loro e sfasati tra di loro che si pongono però in uno spazio ipotetico che il quadro suggerisce ma che il quadro non definisce in nessuna maniera. Lo scarto di questo quadro è appunto l'impossibilità di cogliere l'atto stesso della rappresentazione. Ok? È come quadro una rappresentazione, ma è un quadro che non è in grado di rappresentarci la rappresentazione, perché pone fuori asse, fuori dal quadro il soggetto, perché mischia i piani, perché confonde il ruolo dello spettatore, confonde lo spazio dello spettatore. Perché Velázquez sarebbe andato a gestire le cose in questa maniera? Da dove nasce questo? Perché secondo Foucault l'episteme necessaria, e questo lo vedremo la prossima volta, per identificare, per delineare un uomo che sia in grado di rappresentare l'atto della rappresentazione, cioè di andare oltre alla rappresentazione, non è qualcosa che appartiene all'episteme classica, ma è qualcosa che appartiene all'episteme moderna. Il punto fondamentale dell'episteme moderna, che verrà inaugurato con Kant, è che l'uomo sarà in grado di concepirsi allo stesso tempo come soggetto e come oggetto della conoscenza. Cioè, l'uomo potrà pensarsi come pensante e pensato allo stesso tempo. Nel paradigma classico l'uomo non dispone ancora di questo livello. Sarà con Kant che si inaugura questo principio fondamentale, che nasce l'età moderna, che nasce l'uomo che Foucault sta ricercando. Chiaramente è un processo che non si ferma con Kant, ma sarà il processo che porta alla nascita delle scienze umane, e saranno le scienze umane quelle in cui noi abbiamo l'uomo che parla dell'uomo. Ok? E quindi quali sono le macro evoluzioni che si trovano all'interno dell'episteme classica? Abbiamo detto che i tre pilastri che troviamo nell'episteme moderna sono, oppure le tre, scusatemi, la parola non è bellissima, le tre linee guida sono lavoro, vita, linguaggio. Ok? Foucault dedica tantissime pagine di questo libro che non sto a spiegare, non, peraltro per me è stata anche la parte di revisione meno interessante, in altri casi con un altro tipo di lettura sarebbe stato assolutamente importante, ma entreremo più nello specifico la volta prossima su questo. Il lavoro si concepisce come ricchezza, l'economia è una scienza umana che nascerà solamente quando l'uomo nasce come uomo. La vita si concepisce come storia naturale, è il mondo di Linneo che classifica tutte le forme, non è la biologia che troverà il suo luogo nel XIX secolo. Il linguaggio è la grammatica generale e non è la filologia successiva. Questi sono i tre grandi assi che andremo a vedere la volta prossima in relazione ai filosofi. Vorrei chiudere però leggendo un'ultima parte. Scusatemi, fatemi vedere se ho saltato forse un passaggio, ma a questo punto direi che siamo oltre. Sì, forse a chiusura di questa parte di discorso riprendo questa pagina prima di introdurre la lettura dell'ultimo passaggio facoltiano. È il libro sempre di Dreyfus e Rabino a pagina 67. Qua stanno citando Foucault. L'episteme classica può definirsi nella sua disposizione più generale attraverso il sistema articolato di una matesis, di una tassonomia e di un'analisi genetica. Le scienze recano sempre con sé il progetto, sia pur lontano, di un ordinamento esaustivo. Esse puntano sempre inoltre verso la scoperta degli elementi semplici e della loro composizione progressiva. E nel loro centro esse sono quadro, stensione delle conoscenze in un sistema contemporaneo a se stesso. Come viene spiegato questo passaggio? Secondo Foucault, l'età classica elaborò il progetto di un metodo universale di analisi che avrebbe dovuto condurre a una perfetta certezza, un piano epistemologico in cui fosse possibile collocare tutte le cose e che fosse dotato di un linguaggio che permettesse, garantisse la verità di se stesso, la verità delle proprie asserzioni, concatenando accuratamente i segni e le rappresentazioni, in modo da riflettere sia l'ordinamento del mondo che l'ordine stesso dell'essere, dal momento che l'essere nell'età classica era considerato secondo un ordine universale. Foucault indica in Descartes la figura emblematica del filosofo che insegue la certezza attraverso la ricerca di un metodo che sia in grado di garantirla. In questo modo ogni problema relativo all'identità e alla differenza può essere ricondotto mediante l'uso del metodo a questioni di ordine, ed è in ciò che propriamente consistono il metodo e il suo progresso, ricondurre ogni misura, ogni determinazione attraverso l'uguaglianza e la disuguaglianza a una messa in serie che partendo dal semplice fa apparire le differenze come dei gradi di complessità. Per chi avesse letto il discorso sul metodo di Cartesio, è una sintesi veloce ed efficace del metodo cartesiano, cioè la convinzione che tutte le cose siano scomponibili nei loro elementi semplici e che sia loro solamente il concatenamento che troviamo a livello razionale tra di loro nel mondo della rappresentazione che ce ne possono dare, che ci danno la verità di queste cose. Foucault conclude però la prima parte del libro, quella in cui chiude l'età classica, con un altro punto interrogativo che vorrei leggervi e che chiude il discorso di oggi. La fine del pensiero classico e dell'episteme che rese possibili la grammatica generale, la storia naturale e la storia delle ricchezze, che è stato quello di cui ha parlato nelle 150 pagine precedenti, coinciderà con l'avvenuto arretramento della rappresentazione, o piuttosto con l'affrancamento nei riguardi della rappresentazione, del linguaggio, del vivente e del bisogno. Lo spirito oscuro ma ostinato di un popolo che parla, la violenza e lo sforzo incessante della vita, la forza sorda dei bisogni, sfuggiranno al modo d'essere della rappresentazione, la rappresentazione cristallina, che in questo quadro epistemico pensa di poter scomporre tutto e di poter porre tutto all'interno di un discorso bello, pulito, lindo, crolla. Crolla perché crolla sotto la spinta dello spirito oscuro di un popolo, la violenza della vita, la forza dei bisogni. La rappresentazione non sarà più in grado di rappresentare questi elementi. E questa sarà accompagnata, limitata, urlata, mistificata forse, governata ad ogni modo esternamente dall'enorme spinta ad una libertà, o di un desiderio, o di una volontà che si daranno in quanto rovescio metafisico della coscienza. L'irrompere, qua Foucault sta usando un vocabolario un po' spurio, però l'irrompere del bisogno, l'irrompere della forza, l'irrompere della violenza, del desiderio, l'irrompere della vita. qualcosa come un volere e una forza sorgerà nell'esperienza moderna, a costituirla, forse a segnalare ad ogni modo che l'età classica si è conclusa, e con essa il regno del discorso rappresentativo, la dinastia di una rappresentazione autosignificantesi che enunci nella successione delle proprie parole l'ordine assopito delle cose. Tale rovesciamento è contemporaneo a Sartre. O piuttosto, tale opera impraticabile manifesta il precario equilibrio fra la legge senza legge del desiderio e l'ordinamento meticoloso di una rappresentazione discorsiva. L'ordine del discorso vi trova il proprio limite e la propria legge, ma ha ancora la forza di vestare coestensivo ciò che lo governa. Ivi senza dubbio il principio di quel libertinaggio, è una bella definizione di libertinaggio questa, che fu l'ultimo nel mondo occidentale. Il libertino è colui che, obbedendo a tutti i capricci del desiderio e a ognuno dei suoi furori, può, ma deve altresì rischiararne i minimi moti, attraverso una rappresentazione lucida e volontariamente messa in opera. È tutta l'ossessione del 600 e del 700, poi, che apre al mondo dell'estetico ed è ossessionata dal fatto di dover descrivere questo mondo dell'estetico. È quel certo, Leibniz lo chiama un certo non so che, è quel qualcosa che sfugge in continuazione, è quel qualcosa in cui che le parole cercano di rincorrere senza riuscire ad ingabbiare, finché Husserl a un certo punto dirà benissimo, ma c'è un prelogico che fonda il logico e quindi costitutivamente nel mio sistema questo non è fondabile, come ci saranno Schopenhauer e Nietzsche prima che penseranno esattamente la stessa cosa. Esiste un ordine rigoroso della vita libertina. Ogni rappresentazione deve di colpo animarsi nel corpo vivo del desiderio. Ogni desiderio deve enunciarsi nella pura luce di un discorso rappresentativo. Donde la successione rigida di scene, la scena in Sad è la sregolatezza coordinata alla rappresentazione. E all'interno delle scene l'equilibrio meticoloso fra la combinatoria dei corpi e il concatenarsi delle ragioni. Per questo tale narrazione chiude l'età classica su se stessa, così come Don Chisciotte l'aveva aperta, Justine e Juliette. E se è vero che essa è l'ultimo linguaggio ancora contemporaneo di Rousseau e di Racine, se è insomma l'ultimo discorso che si accinge a rappresentare, cioè a nominare, è ben noto che contemporaneamente essa riduce questa cerimonia al massimo dell'esattezza, chiama le cose col loro nome diretto, disfacendo in tal modo l'intero spazio retorico, e l'allunga all'infinito, nominando tutto e senza dimenticare la più rilevante delle possibilità, poiché queste sono tutte percorse secondo la caratteristica universale del desiderio, sono i gioielli indiscreti di Diderot. Sartre raggiunge il termine del discorso e del pensiero classici, regna rigorosamente sul loro limite. A partire da lui, la violenza, la vita e la morte, il desiderio, la sessualità stenderanno al di sotto della rappresentazione, al di sotto, un'immensa falda d'ombra che adesso tentiamo di riproporre come possiamo, nel nostro discorso, nella nostra libertà, nel nostro pensiero. Ma il nostro pensiero così breve, la nostra libertà così assoggettata, il nostro discorso così detto e ridetto, che dobbiamo renderci conto che in fondo quest'ombra sottostante appare irraggiungibile. Le prosperità di Juliette sono sempre più solitarie e non hanno termine. Si chiude quindi il mondo della rappresentazione, la seconda metà del XVIII secolo. Il percorso di oggi è stato quello di delineare attraverso l'introduzione il perché di un libro, chiarificare su che cosa era fondato questo testo dal punto di vista metodologico e come contenuti, aveva individuato l'episteme come campo su cui si collocano le riflessioni di questo testo, manca chiaramente la parte più associata al percorso che stiamo facendo, che è quella del 1900, quella del XIX e XX secolo. Chiudo dicendo che il concetto di episteme che domina questo libro sarà un concetto che a un certo punto Foucault, non in questo libro, ma nel periodo successivo, abbandonerà, perché con l'episteme non aveva ancora sufficientemente delineato un apparato teorico e metodologico compiuto, coerente. Sarà con il libro successivo, L'archeologia del sapere, del 1969, tre anni dopo, che verrà sorpassata per certi versi l'episteme, che verrà utilizzato un linguaggio che sarà una nuova apertura e che porterà a una serie di riflessioni degli anni 70 che permetteranno l'introduzione di quello che sarà poi uno dei concetti che chiude questa riflessione iniziata nel 66 e che Foucault andrà ad elaborare più compiutamente nel 77, che è quella sul dispositivo. Che ore sono? Ci siamo? Ah, perfetto. Se c'è spazio per domande, naturalmente. Va bene, allora grazie, la prossima volta sarà giovedì prossimo e vedremo le ultime 200 pagine di questo testo. Grazie a tutti. Allora, il mio è cominciato...